le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Nessuna tregua, in calo di 5 punti percentuali tutte le borse europee, ancora giù Unicredit. Londra e Roma si muovono, Brown presenta il piano per il salvataggio delle banche, questa sera Consiglio dei Ministri straordinario. E sulla crisi si combatte la battaglia per la Casa Bianca, nella notte nuovo confronto TV tra Obama e McCain, meglio il democratico secondo i sondaggi. Numeri magici, terzo Nobel diviso in tre, dopo medicina e fisica va un giapponese e due americani, il premio per la chimica. Racket, ecco le tariffe, 3% dagli appalti pubblici, 500 euro a vano dai costruttori, 10.000 euro dai supermercati. 9 italiani su 10 chiedono al governo nuove azioni sul fronte della sicurezza, emerge da un'indagine dell'ISPO. Doping, tutto da rivedere. Il Comitato Olimpico annuncia il ricontrollo dei campioni raccolti nei giorni di Pechino. Si cerca l'EPO di terza generazione. Buongiorno da Alessandra Tedesco. E buongiorno da Simone Spezia. Edizione del GR Extra Large che naturalmente apriamo con la crisi. Le borse europee sono in forte calo anche questa mattina. Fra poco vi daremo tutti i dettagli. Ma prima parliamo dei due incontri straordinari sulla crisi finanziaria che si terranno oggi in Italia. Per le 20 è stato convocato un Consiglio dei Ministri, mentre stamattina a Roma riunione indetta urgentemente dal ministro Tremonti con i vertici di Banca Italia, ABI, Confindustria e Mediobanca. Vincenzo Miglietta, allora che cosa sta succedendo? Sì, buongiorno, un comitato di crisi in piena regola, quello in corso qui al Ministero dell'Economia, obiettivo del governo fare il punto con i maggiori soggetti interessati sui riflessi della crisi internazionale sul nostro paese. Quello che si teme ormai non sono tanto le conseguenze sul sistema finanziario, piuttosto quelle sul sistema produttivo in generale. Si parla di corto circuito, banche e imprese con un paese già a crescita zero, si dice qui al Tesoro la mancanza di finanziamenti potrebbe a breve mettere in ginocchio le aziende con tutto ciò che ne consegue. Ecco da qui la riunione del comitato straordinario e quindi la messa Vincenzo, a punto. Vincenzo, ti interrompo perché poi gli aggiornamenti su questo fronte sono continui. La Federal Reserve, la banca centrale americana, ha appena deciso di tagliare di mezzo punto percentuale i tassi di interesse. Tra pochissimo ci collegheremo con Deborah Rosciani per sentire come stanno reagendo le borse, però Vincenzo, stasera è convocato anche il Consiglio dei Ministri. Sì, le prime misure arriveranno dunque con un Consiglio dei Ministri convocato per le 20. La decisione di accelerare i tempi è stata presa questa mattina in un faccia a faccia a Berlusconi-Tremonti. Si preannuncia un decreto d'urgenza finalizzato alla stabilità proprio finanziaria delle banche. In ambienti del Tesoro si continua a ripetere che il sistema italiano è più solido di quello di altri paesi, ma a questo punto è chiaro che Palazzo Chigi metterà sul tavolo risorse anche ingenti per mantenere in piedi il sistema creditizio. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti, resta un attimo con noi. Adesso Deborah Rosciani, come dicevamo la Fed ha tagliato di mezzo punto percentuale il costo del denaro. Deborah Rosciani, come stanno reagendo le borse? Allora vi dico che anche la Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi dell'Eurozona al 3,75%, la Federal Reserve ha portato i tassi americani invece all'1,75%, vedo in questo momento anche il lancio di agenzia del taglio da parte della Banca Centrale Svizzera di 50 punti base del costo del denaro. La borsa sta reagendo immediatamente bene con un netto miglioramento su tutte le piazze finanziarie. Andiamo a vedere cosa accade. Parigi, meno un punto, perdeva l'8% stamattina in apertura, fra il 7 e l'8. Francoforte, meno 2 in questo momento. Londra, meno 2,36. Anche Milano sta rapidamente risalendo la china, meno 1,96% sull'S&P MIB, meno 2,29% sul MIBTEL in questo momento. E stanno nettamente migliorando molti titoli a Piazza Affari che stamattina erano in profondo rosso. Guida i rialzi il Banco Popolare più 5,36%, permane ancora ovviamente la grande incertezza, la grande volatilità, ma evidentemente la mossa concertata delle banche centrali sta facendo respirare notevolmente i listini del vecchio continente. Grazie Deborah Rosciani, dunque ricordiamo la notizia di pochi minuti fa, sia la Banca Centrale Europea che la Fed, quindi la Banca Centrale Americana, hanno tagliato il costo del denaro, i tassi di mezzo punto. Simone. Sì, torniamo al nostro Vincenzo Miglietta perché nel frattempo in Italia sul fronte politico si sta scatenando una certa polemica sulla crisi. Su che fronti, Vincenzo? Sì, è così, la crisi ha indubbiamente allontanato ancora di più maggioranza ed opposizione, praticamente quest'ultima rinfaccia al governo di non aver preso per tempo le misure necessarie, però il Partito Democratico con Bersani propone oggi una task forza trasversale tra gli schieramenti per affrontare l'emergenza, in sostanza quanto già successo negli Stati Uniti con il presidente Bush, che ha visto contestualmente i due candidati alla presidenza. La posizione questa di Bersani era in sostanza stata anticipata ieri da Veltroni, rifiutata però in un primo momento da Berlusconi. Oggi la situazione sembra in evoluzione grazie, sembrerebbe, all'ennesima mediazione da parte del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta. Grazie Vincenzo per questi aggiornamenti. Nel frattempo apprendiamo che il governo verrà a riferire domani nell'aula di Montecitorio sulla crisi finanziaria dei mercati internazionali. Nel frattempo, Alessandra, apprendiamo che... Anche la Banca d'Inghilterra ha tagliato il costo del denaro. Deborah Rosciani, stanno ulteriormente reagendo le borse a questa notizia? Sì, è una reazione continua. Praticamente addirittura stanno annullando quasi tutte le perdite che venivano messe a segno questa mattina. Parigi ancora in calo di mezzo punto, Francoforte -1,6, Londra -2,49, ancora più pesante, ma abbiamo una variazione percentuale aggiornata con un leggero ritardo, Milano -0,89% sull'S&P MIB, quindi netto miglioramento, sì. E speriamo che continui così questa giornata. Deborah, abbiamo parlato di come si sta muovendo il governo italiano, Alessandra. Sì, abbiamo parlato di come si sta muovendo il governo italiano, ma ieri, lo ricordiamo, c'è stato l'Ecofin, quindi tutti i paesi, 27 paesi dell'Europa, hanno cercato di trovare un accordo su come affrontare questa crisi. Allora sentiamo un po', facciamo il punto della situazione. Le conclusioni del vertice Ecofin avranno deluso molti, ma quel via libera in via di principio agli aiuti di Stato illumina i movimenti dei governi europei. L'ultima in ordine di tempo è stata la Gran Bretagna. Questa mattina il primo ministro Gordon Brown si è presentato davanti alle telecamere per spiegare il piano di sostegno agli istituti di credito inglesi. In prima battuta lo Stato acquisterà azioni per 25 miliardi di sterline. Altri 25 miliardi sono già pronti in caso di necessità. In cambio le banche dovranno impegnarsi a concedere prestiti alle piccole imprese e ai proprietari di case. Ricordiamo che negli ultimi 8 mesi l'Inghilterra ha già nazionalizzato la Northern Rock e la Bradford & Bingley, due istituti salvati anche in Islanda. A dir la verità, Reykjavik è messa anche peggio. Ha dovuto chiedere alla Russia un prestito da 4 miliardi di euro e la moneta nazionale si è svalutata del 30%. In Spagna non se la ridono, ma le banche sembrano non dare segni di difficoltà. Però dopo il fallimento di alcune società immobiliari, Zapatero ha preferito fugare ogni rischio mettendo in campo un fondo da 30 miliardi di euro. Nemmeno a Parigi ridono, ma se all'inizio della crisi le banche francesi sembravano le più esposte, ora possono addirittura andare in soccorso delle altre, come BNP Paribas, che ha acquistato le attività bancarie del gruppo belga-olandese Fortis, diventando così il primo gruppo europeo. Anche in Germania lo Stato è intervenuto, due le banche già salvate e Ipo Real Estate costerà ai contribuenti 50 miliardi. La confusione è evidente, l'idea del fondo europeo è stata fondata da Germania e Inghilterra. Eppure, oggi, il britannico Brown è tornato sui suoi passi, invitando gli altri paesi dell'Unione a adottare un piano comune di finanziamento. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. Adesso vediamo un attimo di fare un punto di quel che sta succedendo, perché le notizie si stanno affastellando. Deborah Rosciani, in realtà questa mossa di taglio dei tassi di interesse è stata attuata praticamente da tutte le principali banche centrali del mondo. Sì, diciamo che erano queste le iniziative che invocavano probabilmente i mercati a gran voce, se ne parlava già da qualche giorno e c'erano state anche le aperture abbastanza chiare da parte della Banca Centrale Europea, che forse in questo momento era ancora la banca centrale più restia ad una riduzione del costo del denaro. La mossa concertata è arrivata, tutte le banche centrali delle principali economie si sono mosse in maniera univoca, tagliando il costo del denaro dei rispettivi paesi di mezzo punto percentuale. Rifaccio un punto della situazione: ha tagliato la Federal Reserve all'1,75% negli Stati Uniti, la Banca Centrale Europea ha portato i tassi al 3,75, ha tagliato di 50 punti base la Banca Centrale Svizzera, lo ha fatto la Banca d'Inghilterra. Vi segnaliamo anche l'intervento della Banca Centrale del Canada. La Cina ha tagliato di mezzo punto, ha tagliato di mezzo punto anche la Banca Centrale svedese. I listini non solo nel vecchio continente hanno drasticamente ridotto le loro perdite dopo la mossa congiunta delle banche centrali, ma addirittura Parigi si sta portando in positivo, sta guadagnando lo 0,09% in questo momento. Rimangono ancora un po' in difficoltà le altre piazze, ma praticamente le perdite sono state annullate quasi ovunque. Milano in questo momento è ancora in calo dello 0,9%. Ricordiamo ricordiamo che stamattina in apertura le piazze perdevano fra il 7 e l'8% dappertutto nel vecchio continente. Grazie Deborah Rosciani, torneremo a collegarci con te ogni quarto d'ora circa per sapere come stanno reagendo le borse a queste decisioni prese dalle banche centrali, abbiamo un po' sentito di tutto il mondo. Di crisi naturalmente si è parlato nel secondo faccia a faccia televisivo negli Stati Uniti, Simone. Sì, nel Tennessee tra i due candidati alla presidenza statunitense, una caduta di stile a quanto pare c'è stata per il candidato repubblicano. Allora sentiamo la cronaca di questo confronto. You know who voted for it? Might never know that one. You know who voted against it? Il nervosismo è affiorato in modo chiaro in una sola occasione quando John McCain ha additato con un quello là il suo avversario Barack Obama, abbandonando il più politically correct appellativo di senatore Obama. Ma non ha funzionato, come non ha funzionato ancora una volta il tentativo del candidato repubblicano di far passare il più giovane avversario democratico come un inesperto incapace di guidare l'America. Obama ha opposto agli attacchi di McCain una flemma e una compostezza presidenziali che gli hanno fruttato il gradimento in tutti i sondaggi svolti a caldo. CNN, CBS e persino la repubblicana Fox News gli hanno assegnato la seconda vittoria ai punti in due match. We are in the worst financial crisis since the Great Depression. Sull'economia Barack Obama è stato chiaro fin dall'inizio, gli Stati Uniti vivono la peggiore crisi finanziaria dai tempi della Grande Depressione, crisi secondo lui frutto delle politiche fallimentari portate avanti negli ultimi 8 anni da George Bush con l'appoggio di John McCain. E per convincere gli elettori Obama ha proposto un programma di salvataggio della classe media promettendo tagli alle tasse. Gli americani sono angry, they're upset. E proprio sull'economia John McCain ha tentato, senza troppo successo, l'unico vero colpo d'ala dell'intero dibattito, anticipando l'intenzione di chiedere al Tesoro la rinegoziazione di mutui immobiliari a rischio per aiutare i proprietari delle case. Una mossa azzardata all'interno dello stesso campo repubblicano, considerati gli alti costi del progetto, fino a $300 miliardi. Unico punto di comune accordo tra i due è la possibile designazione di Warren Buffett come prossimo segretario al Tesoro. In tema di priorità politiche, Obama ha indicato nell'ordine l'energia, seguita dalla riforma dell'assistenza sanitaria e dall'istruzione scolastica. McCain ha sbrigativamente messo tutti e tre i temi sullo stesso piano prioritario. Infine la politica estera, con Obama l'attacco sulla guerra in Iraq e McCain pronto a rinfacciarli i propositi offensivi contro il Pakistan. Ultimo confronto tra i due candidati a metà della prossima settimana nello stato di New York. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore. Prima della viabilità, Simone, una vignetta amara su questa crisi. Sì, è firmata da LK sulla Repubblica. Ci sono i due consueti personaggi di LK che parlano e uno dice all'altro crisi planetaria senza precedenti e c'è l'altro che risponde siamo tutti sullo stesso cornicione. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Tutte le principali banche centrali del mondo hanno tagliato i tassi di interesse giù di mezzo punto in Europa e negli Stati Uniti. Le borse riprendono fiato, diminuiscono le perdite nel vecchio continente. Sarkozy intanto annuncia G8 allargato entro la fine dell'anno. E il governo italiano si muove, è in corso il vertice con il ministro Tremonti, il governatore della Banca d'Italia e Mediobanca. Questa sera poi ci sarà un consiglio dei ministri straordinario nel quale verrà varato un decreto per sostenere il sistema bancario. Il candidato democratico alla presidenza americana Barack Obama esce vincitore, stando ai sondaggi anche dal secondo confronto televisivo con il repubblicano John McCain. Quasi tutto il match TV è stato incentrato sulla crisi economica. Per la lotta al doping il Comitato Olimpico vuole ricontrollare tutti i campioni raccolti durante le Olimpiadi. Si cerca l'EPO di terza generazione. Intanto il CIO starebbe pensando di escludere il ciclismo per un periodo dalle discipline olimpiche. Un'inchiesta contro le cosche del siracusano svela le tariffe del racket e Inardo di Lentini chiedevano il 3% sugli appalti pubblici e ai costruttori 500 euro a vano. La notizia è arrivata mentre eravamo già in onda con il nostro GR Extra Large. Le principali banche centrali del mondo hanno tagliato di mezzo punto percentuale i tassi di interesse. Allora, Deborah Rosciani, quali sono le reazioni sulle borse? Sono state reazioni immediatamente positive. Tra l'altro vedo dalle agenzie anche che sta parlando la Banca Centrale Europea, che per la prima volta ammette con chiarezza troppi rischi per la crescita. L'inflazione in eurozona è in calo, di conseguenza si può allentare la presa monetaria, si può allentare in questo momento appunto il costo del denaro anche nell'eurozona. Allora, in questa mossa concertata che non ha precedenti per l'economia mondiale, tutte le banche centrali delle principali economie hanno tagliato in media di mezzo punto percentuale il costo del denaro, a partire dalla Banca Centrale Europea, che ha tagliato al 3,75% il costo del denaro dell'eurozona. Ma la mossa è stata importante anche da parte della Federal Reserve, che ha portato il tasso di sconto in America all'1,75%, e poi da lì in avanti è stata comunicata la mossa da parte anche della Svizzera, da parte delle principali economie. Come dicevamo poco fa, abbiamo appreso anche che la Banca Centrale del Kuwait ha tagliato il tasso di sconto dal 5,75 al 4,5. Borse naturalmente in reazione immediatamente positiva. C'è da dire che però non tutte le piazze finanziarie stanno riuscendo a mantenersi in territorio positivo come avevano fatto capolino fino a poco fa. Infatti Francoforte sta di nuovo scendendo del 2,5%, Londra è positiva più 0,31, Milano meno 1,90, volatilità alle stelle, grande tensione anche sul mercato valutario. Grazie Deborah, torneremo a collegarci con te, quindi torneremo a parlare della crisi finanziaria, ma adesso ci prendiamo un attimo di respiro, diciamo così, e parliamo dei Nobel. Sì, il Nobel per la chimica 2008 è stato assegnato questa mattina a Usami Shomomura, Martin Chalfi e Roger Tsin. Non ce la possiamo fare. Sì, sono nomi un po' complicati, soprattutto quando si tratta dei giapponesi. Sono stati premiati per la scoperta della proteina fluorescente GFP. Ne parleremo meglio alle 13.45 con il nostro Federico Pedrocchi, cercando di capire la portata di questa scoperta. Un altro Nobel dunque diviso per tre persone, dopo quelli per la medicina e per la fisica. E proprio su questo è nata una polemica made in Italy. C'è chi questo riconoscimento avrebbe voluto dividerlo almeno per quattro. L'ultimo, intendiamo, quello per la fisica. I tre premiati infatti si sono basati sul lavoro di un fisico italiano, Nicola Cabibbo. In diretta con noi il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Roberto Petronzio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, un Nobel scippato, questo per la fisica? Dai, i Nobel sono assegnati, non sono mai scippati. Certo che un po' la comunità italiana, ma devo dire non solo, non è una polemica italiana, è un'attesa un po' più generale, non solo italiana, si attendeva il riconoscimento per Nicola Cabibbo, che ha fatto il lavoro da pioniere, se vogliamo, nel settore in cui due dei premiati sono stati insigniti il premio Nobel. Tra l'altro, Petronzio, gli stessi accademici di Stoccolma citano Cabibbo nelle loro motivazioni, se non erro? Assolutamente, non potevano non farlo, perché il lavoro dei due giapponesi, Kobayashi e Maskawa, l'altro è un po' diversa la motivazione e secondo me è meno, cioè non ha un problema analogo, cita esplicitamente, mi sembra addirittura 8 volte, il lavoro di Nicola Cabibbo come il base dal quale poi essi hanno generalizzato. Ma allora secondo lei perché Cabibbo non è stato premiato? Ma diciamo, io la risposta ovviamente non la so. Certo, lei non è fra quelli che ha deciso, però insomma... Però diciamo, non è la prima volta, devo dire un po' francamente, bisogna pensare che il... soprattutto nei premi Nobel dati a distanza anche rilevante dal momento della scoperta, qui stiamo parlando di 30-40 anni, c'è a volte il fatto che la storia viene un pochino riscritta, viene modificata da quelli che poi riprendono idee precedenti che tuttavia hanno la paternità di quel campo. Inoltre ci può anche essere un minimo di affollamento sui premi Nobel, infatti come vede uno è andato a un giapponese per un motivo e poi altri due per un altro motivo. In qualche modo si tratta di un puzzle da ricomporre cercando di premiare i meritevoli, e in questo puzzle è scappato un elemento molto importante. Non è la prima volta. Nessun complotto anti-italiano quindi, Petronzio? No, io francamente non sono per i complotti, siamo tutti amareggiati. È un comitato di esperti, ma sono tutte teste pensanti umane che possono anche sbagliarsi. Ma lei ha avuto modo di sentire Nicola Cabibbo, rimasto deluso per questo? Ma certamente, ma non in quanto narcisisticamente pensava che il premio fosse qualcosa, diciamo, di solamente onorificenza. È proprio che il suo lavoro nei 30-40 anni che sono intercorsi è stato citato, non so, migliaia di volte, e lui è sempre stato considerato alla base di questo. In quanto la delusione non è quella di non avere il premio Nobel in assoluto, ma che sia stato dato in quel settore senza riconoscere il suo ruolo. Grazie per essere stato con noi, Roberto Petronzio, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Buona giornata. Grazie anche a voi. Noi passiamo alla cronaca che ci porta in Sicilia, precisamente nel Catanese, dove c'è stata una maxi inchiesta contro il racket ed è stato scoperto anche un singolare tariffario. Sentite un po'. un tariffario regolare e rigoroso, senza sconti o eccezioni. Il racket delle estorsioni nella provincia di Siracusa era disciplinato con tutti i crismi che una sana contabilità impone. Le imprese edili dovevano pagare il 3% dell'importo dell'appalto pubblico. I supermercati avevano un obbligo da 6 a 10 mila euro all'anno a seconda delle dimensioni e dell'attività e della zona. A tutti gli imprenditori era imposta l'assunzione di personale amico. Questa era la regola nel clan Nardo di Lentini, nel Siracusano, dai particolari emersi nel corso dell'inchiesta Gorgia 3 della Procura Antimafia di Catania. L'inchiesta è culminata in 5 ordini notificati in carcere e 2 denunce. Gli inquirenti, che si sono avvalsi delle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, hanno fatto luce sulle tecniche di estorsione del clan molto legato ai Santa Paola, dalla fine degli anni 80 al 2003, nel Siracusano, tra Lentini, Carlentini e Augusta. Alessia Bivona, GR24 Il Sole, 24 ore, Palermo. 9 italiani su 10 si aspettano altre azioni di governo sul fronte della sicurezza. Emerge da un'indagine presentata oggi all'Assemblea Annuale dell'Associazione Italiana Vigilanza. Francesca Malaguti, allora, che cosa emerge da questa indagine? A quanto pare gli italiani hanno ancora paura. Per 8 su 10 la sicurezza è ancora un'emergenza nazionale e precisamente l'87% di loro, quindi come avete detto 1 su 9, si aspetta altre azioni di governo per garantirla. Lo dice una ricerca dell'ISPO commissionata dall'ASSIF, l'Associazione Italiana Vigilanza, che oggi aderisce a Confindustria ANIE. Sempre secondo la ricerca, solo un italiano su 2 è soddisfatto dei provvedimenti del governo in materia di sicurezza, anche se Renato Mannheimer, che ha presentato la ricerca, specifica che questo dipende molto dall'orientamento politico degli intervistati. Era presente all'assemblea dell'ASSIV anche il ministro dell'Interno Maroni. Sentiamo come ha commentato i risultati. Il compito nostro del governo è quello di prendere provvedimenti per aumentare la sicurezza, ma anche diminuire la percezione di insicurezza. Perché i cittadini sono contenti nel vedere i militari? Perché vedere una divisa dimostra che c'è qualcuno che si preoccupa e presidia il territorio. Non vogliamo militarizzare il territorio, non vogliamo mettere un poliziotto accanto ad ogni cittadino, naturalmente. Grazie allora alla nostra Francesca Malaguti in collegamento da Roma. Da promotori del territorio a impresa commerciale. Stiamo parlando della storia di Lucense, una società nata per far conoscere il distretto cartario di Lucca, che dopo qualche anno si è ritrovata a produrre pezzi d'arredamento in cartone. Insomma, una bella storia aziendale. Ed è un'attività per la quale ieri ha ricevuto il premio Carte nella sezione Talento. Il direttore allora di Lucense, Enrico Fontana, al microfono di Laura Bettini. Avendo a disposizione le imprese, le relazioni, le conoscenze, abbiamo ideato questa città sottile che nasce come evento culturale finalizzata a sperimentare usi innovativi del cartone. E è venuto fuori anche una dimensione commerciale di città sottile che oggi è un marchio registrato di Lucense. E la dimensione commerciale che poi ha avuto un grande slancio con un contratto con un'azienda non di calzatura importante, la Manas, che ha deciso di realizzare tutti gli allestimenti dei suoi punti vendita con città sottili. Quindi dall'essere un modo così per promuovere il territorio, in realtà poi è diventato un marchio, addirittura un'attività commerciale. Bene, adesso noi andiamo in giro per il mondo, abbiamo una rete ovviamente di fornitori, un ufficio dedicato che segue allestimenti di mostre, forniture di elementi di arredo per anche aziende. Ci sono alcune aziende che stanno realizzando degli uffici con i nostri elementi in cartone. È una durata normale, diciamo, quella che si ottiene utilizzando questi materiali? Sì, noi abbiamo oggetti che abbiamo realizzato per le mostre, no? Costruiti nel 2003, che hanno girato anche il mondo per mostre, che tuttora sono utilizzati. Quali difficoltà invece vi pone questo materiale? Le difficoltà sono quelle classiche, acqua e fuoco, però con opportuni accorgimenti e l'utilizzo corretto dei materiali si superano. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Tutte le principali banche centrali del mondo hanno tagliato i tassi di interesse, giù di mezzo punto in Europa e negli Stati Uniti. Le borse riprendono fiato, diminuiscono le perdite nel vecchio continente, ma i listini sono ancora tutti negativi. Sarkozy annuncia G8 allargato entro la fine dell'anno. E il governo italiano si muove, in corso il vertice con il ministro Tremonti, governatore della Banca d'Italia, Confindustria e Mediobanca. Questa sera poi ci sarà un consiglio dei ministri straordinario nel quale verrà varato un decreto per sostenere il sistema bancario. Il candidato democratico alla presidenza americana Barack Obama esce vincitore, almeno stando ai sondaggi, anche dal secondo confronto televisivo con il repubblicano John McCain. Quasi tutto il match TV è stato incentrato sulla crisi economica. Ancora un premio diviso per tre, il Nobel della chimica assegnato questa mattina a due americani e un giapponese. Hanno scoperto la proteina fluorescente GFP. Sul Nobel per la fisica assegnato ieri, a XL il presidente dell'Istituto di Fisica Nucleare dice: nessun complotto, ma un riconoscimento sarebbe dovuto andare anche all'italiano Cabibbo. Per la lotta al doping, il Comitato Olimpico vuole ricontrollare tutti i campioni raccolti durante le Olimpiadi. Si cerca l'EPO di terza generazione. Intanto il CIO starebbe pensando di escludere il ciclismo per un periodo dalle discipline olimpiche. Un'inchiesta contro le cosche del siracusano svela le tariffe del racket. Inardo di Lentini chiedevano il 3% sugli appalti pubblici e ai costruttori 500 euro a vano. E l'approfondimento economico di oggi lo dedichiamo ad un documento. Un documento particolare che riguarda la deposizione dell'ex numero uno di Lehman Brothers al Congresso americano. Tutti sapevano che Lehman Brothers andava sempre peggio, ma nessuno ha capito la gravità della situazione. Fold accusa anche le autorità finanziarie del paese. La Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, ma anche le autorità di borsa, conoscevano la situazione critica in cui versava Lehman Brothers. La quarta banca d'America alle prese con le conseguenze della crisi dei mutui subprime, poi crollata sotto l'attacco di voci e notizie divenute incontrollate, regole inadeguate e incapacità gestionali. A parlare così è stato due giorni fa al Congresso americano Richard Fold, ex amministratore delegato di Lehman Brothers. Una testimonianza che è anche un'ammissione di colpa e una chiamata di corresponsabilità a molti altri attori. Così Fold nella sua audizione. Noi siamo in mezzo a uno sconvolgimento senza precedenti nei mercati finanziari. I problemi che molti credevano limitati ai mercati dei mutui si sono estesi su tutti i mercati del credito. Questi problemi oggi non riguardano più solo Wall Street. Questa è una crisi che investe l'intera economia globale e nessuno ha capito per tempo la magnitudo di questi problemi, né fino a che punto il deterioramento degli asset legati ai mutui avrebbe sparso il contagio. Nessuno ha capito in tempo utile, attacca Fold, a cominciare ad esempio dal presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, che ha sempre rassicurato i mercati, ma anche il segretario al Tesoro, Paulson, non ha saputo o voluto vedere fino in fondo la gravità della situazione. Nell'aprile del 2006, il presidente della Federal Reserve, Bernanke, nelle sue previsioni affermava che il mercato immobiliare avrebbe molto probabilmente attraversato una fase di graduale sgonfiamento, piuttosto che una profonda caduta. Nel marzo dell'anno successivo, il 2007, Bernanke disse ancora che l'impatto sull'economia reale e sui mercati finanziari dei problemi dei mutui subprime era contenuto. Allo stesso modo, il segretario al Tesoro, Paulson, disse nel giugno del 2007 che la crisi dei mutui non avrebbe intaccato negativamente l'economia nel suo complesso. Anch'io, per parte mia, avevo detto di essere convinto che il peggio dell'impatto della crisi fosse alle nostre spalle. Con il senno di poi, dico adesso che mi sbagliavo, ma aggiungo che con me hanno sbagliato molti altri. Ma il protagonista numero uno del rovinoso crollo da 630 miliardi di dollari davanti al Congresso americano ha voluto mettere sul banco degli imputati anche una pratica come quella delle vendite allo scoperto. Le vendite allo scoperto hanno contribuito a fare collassare Bear Stearns e Lehman Brothers. Da una parte sono una buona protezione contro il rischio, dall'altra però sono un invito alla manipolazione dei mercati. La vendita allo scoperto è quella pratica per la quale si vendono azioni, senza prima prendere in prestito o disporre la presa in prestito di quelle stesse azioni per poterle consegnare al compratore in tempo utile. In pratica si tratta di vendere qualcosa che tu stesso non possiedi e potresti alla fine non poter consegnare al tuo acquirente. Anche Richard Fold, che dalla posizione di numero uno della Lehman Brothers ha visto l'accelerazione della crisi delle banche e dei mercati di tutto il mondo, anche lui a questo punto auspica la nascita di un pacchetto di regole nuove e trasparenti per ridare vita a un mercato ordinato e corretto. Alessio Maurizi, GR24, Il Sole 24 Ore. Il fallimento di Lehman Brothers è stato un po' il primo tassello del domino che è venuto a crollare, insomma il simbolo di questa crisi finanziaria ed economica. Giulia Crivelli, si parla di crisi naturalmente sui giornali americani, in che modo? Sì, tantissimo, perché naturalmente anche perché poi è stato uno degli argomenti principali del dibattito di ieri tra McCain e Obama, però c'è su Financial Times un aspetto, uno dei tanti da cui si può analizzare questa crisi. Il titolo è Bloomberg cavalca la tempesta, ride the storms, naturalmente la tempesta finanziaria e economica, perché il sindaco di New York, proprio adducendo senza nascondere assolutamente le sue intenzioni, il momento difficile che attraversa Wall Street, la città di New York che almeno in parte vive intorno all'economia di Wall Street e naturalmente gli Stati Uniti, bene, approfittando di questa difficoltà dice: non è il momento di cambiare sindaco, la legge dice che io dovrei andarmene, finito il mio secondo mandato, cambiamo questa legge così che io possa fare un terzo mandato e accompagnare New York fuori da questa crisi. Secondo Financial Times le argomentazioni faranno presa sull'opinione pubblica, sui legislatori di New York, dello Stato di New York, e quindi probabilmente Bloomberg ce la farà a ottenere questa dispensa e continuerà a essere il sindaco di New York. Ecco Giulia, ieri in Italia è stata votata la fiducia al governo sul decreto Gelmini, insomma con tutte le modifiche alla scuola che ci sono, ma si parla parecchio di scuola anche in Germania. Sì, naturalmente il tema della scolarizzazione e anche della difficoltà in cui versano i sistemi scolastici, soprattutto quelli pubblici, è europeo, e quindi in questo caso ho trovato questa notizia sul Tagesspiegel, un quotidiano di Berlino, e dove si annuncia questa misura, scusate se sorrido, ma direi che è tipicamente tedesca, un po' drastica, cioè chi manca 5 volte alle lezioni in un anno, che direi che sono tanti, sono pochissimi 5 giorni in un anno, può capitare a tutti, ebbene rischia di essere bandito dalle scuole. Per questo questa misura drastica è stata decisa, perché nel primo semestre del 2008 ci sono stati 140.000 giorni di assenza, e naturalmente molti di questi giorni sono giustificati, molti altri forse non lo sono, tutti abbiamo marinato la scuola nella nostra vita. Tra l'altro il progetto è della SPD, quindi il partito anche spesso, tra l'altro. Possiamo fondare due partiti, quelli che non marinavano e quelli che lo facevano. Grazie Giulia Crivelli, non solo crisi, anche sui giornali arabi oggi in edicola. Sentiamo Adib Fateh Ali. Non lo sentiamo perché evidentemente... Non lo sentiamo perché, ecco, adesso siamo in grado, la regia ci comunica, siamo in grado di mandare la rassegna stampa di Adib Fateh Ali. Oltre alla crisi finanziaria mondiale, è la difficile mediazione dell'Egitto per la riconciliazione palestinese ad essere al centro dell'attenzione della stampa araba di oggi. Al-Quds Arabi riporta la proposta del Cairo per un governo di tecnocrati che prepari insieme elezioni parlamentari e presidenziali. In caso di opposizione di Hamas, la fazione rivale al Fatah minaccia di proclamare Gaza una provincia ribelle. Tra arabi e israeliani è guerra gastronomica. Libanesi minacciano querele contro Israele per appropriazione indebita di piatti tradizionali arabi. Ashraf al-Awsat riporta che sarà una corte europea a deliberare se l'hummus, tipica salsa a base di ceci e farina di sesamo, è un patrimonio culinare degli arabi oppure dei loro cugini ebrei. Il loro abbigliamento disturba la quieta pubblica. Con questa motivazione la polizia del Sudan ha giustificato l'arresto, avvenuto ieri nel sud del paese, di 35 donne che calzavano pantaloni stretti. Ognuno pensa solo a se stesso. Questa è la verità. È una voce che molti avranno riconosciuto, è quella di Gianni Morandi naturalmente. È già un successo di vendita il suo nuovo lavoro, ancora Grazie a tutti, un triplo CD che completa Grazie a tutti, la raccolta uscita lo scorso anno. Sono 48 brani, 4 inediti, questo è uno di questo quelli. Questo è uno di, punto, di quelli inediti. A breve, fra l'altro, inizierà il tour in tutta Italia di Morandi, e come sempre un pubblico femminile di diverse generazioni, mamme con le figlie, zie con le nipoti. Insomma, Morandi rappresenta un po' un successo generazionale, e su questo Paolo Panceri l'ha intervistato. Esattamente, non lo so, forse perché canto le canzoni d'amore, che un po' il pubblico femminile predilige, e le canto da sempre, quindi le mamme si portano dietro le figlie e le nonne, e alla fine c'è questo pubblico molto particolare, diciamo in maggioranza sempre femminile. C'è un'affezione perché adesso forse lo sapete meglio voi di me, dal di dentro non riesco a capirlo bene. Ci sono stati degli alti e dei bassi, chiaramente non è mai stato tutto facile e tutto di grande successo. Direi che i grandissimi successi ci sono stati negli anni 60, poi lunghi momenti di pausa, di buio, e poi ricominciare, poi ritrovare il contatto con il pubblico, riproporsi, rischiare, cambiare anche un po' il modo di interpretare le canzoni, crescere, migliorare. Insomma, è un lungo viaggio fatto di alti e di bassi. Può anche giocare il fatto che tu sembri dimostrare 20 anni di meno grazie alla tua nota passione per lo sport, per la corsa? Ma magari ci sta anche quello. Io amo la vita all'aria aperta e naturalmente lo sport. Mi tengo in forma, ma questo, sai, c'è tanta gente che cerca di tenersi in forma e poi magari non ha la fortuna di star bene. Brevissimamente, la notizia del giorno: le principali banche centrali hanno tagliato in mezzo punto i tassi di interesse. Deborah Rosciani, listini, come stanno andando? La reazione, lo abbiamo detto, era stata immediatamente molto positiva, vistosi recuperi dopo i forti cali della mattinata. Il quadro ancora è generalmente negativo in Europa, ma è netto miglioramento dopo la mattinata. Per l'appunto, Piazza Affari perde l'1,6% sull'S&P MIB, e tra le altre piazze segnaliamo Londra -0,5%, Parigi -0,3%, Francoforte -1,19%. Grazie Deborah Rosciani, ci sentiremo naturalmente in conclusione di Extra Large. GR Extra Large, queste sono le notizie della giornata. Si muovono le banche centrali del mondo, che hanno tagliato i tassi di interesse giù di mezzo punto in Europa e negli Stati Uniti. Le borse riprendono fiato e diminuiscono le perdite nel vecchio continente, ma i listini sono ancora tutti negativi. Intanto Sarkozy annuncia G8 allargato entro la fine dell'anno. E il governo italiano si muove. In corso il vertice fra il ministro Tremonti e i rappresentanti di Banca Italia, Confindustria e Mediobanca. Questa sera poi ci sarà un consiglio dei ministri straordinario nel quale verrà varato un decreto per sostenere il sistema bancario. Il candidato democratico alla presidenza americana Barack Obama esce vincitore, stando ai sondaggi anche dal secondo confronto televisivo con il repubblicano John McCain. Quasi tutto il match TV è stato incentrato sulla crisi economica. Ancora un premio diviso per tre, il Nobel per la chimica assegnato a due americani e un giapponese. Hanno scoperto la proteina fluorescente GFP, fra poco ne parleremo meglio. E sul Nobel per la fisica, XL, il presidente dell'Istituto di Fisica Nucleare, ha detto: nessun complotto, ma un riconoscimento sarebbe dovuto andare anche all'italiano Khabibbo. Per la lotta al doping, il Comitato Olimpico vuole ricontrollare tutti i campioni raccolti durante le Olimpiadi. Intanto il CIO starebbe anche pensando di escludere il ciclismo per un periodo dalle discipline olimpiche. Lo sentivate poco fa, è stato assegnato questa mattina il Nobel per la chimica, come dicevamo prima. Il riconoscimento è andato a tre scienziati che lavorano negli Stati Uniti. Simone, a te i nomi stavolta. Adesso questa volta ci provo io: Osamui Shimomura, Martin Shelfi e Roger Tsien, per la scoperta della proteina fluorescente GFP. Federico Pedrocchi, spero di averli detti giusti. Sì. Federico Pedrocchi è il nostro esperto di scienza, visto che su Radio 24 conduce la trasmissione Mebius. Allora Federico, cos'è questa proteina fluorescente? Allora, intanto questa proteina si trova in natura, per esempio in alcune meduse, e c'è da sempre, insomma. Però perché il Nobel è stato assegnato? Vediamo perché. Nella vita di una cellula e dei suoi geni, ricordo che i geni sono poi i contenitori, no, di quella informazione che dà vita a tutto quello che succede alla materia vivente. Allora, nella vita di una cellula ci sono tante fasi nelle quali un gene si attiva e produce qualcosa. Per esempio, quando l'organismo è nelle sue prime fasi di vita, partono delle informazioni che dicono alla cellula: adesso tu diventi un pezzettino di fegato oppure un pezzettino di unghia, quel processo fondamentale che è la differenziazione. Oppure, perché non siamo alti 20 metri? Perché a un certo momento... Una domanda che io mi faccio spesso dal mio metro e mezzo. Qui nello studio non ci staremo, no? Perché c'è un'informazione genetica che dice: ok, tu diventerai un grande giocatore di basket, però ti fermi a 2,20 e 2,30, no? E poi purtroppo ci sono anche le brutte informazioni, quelle che dicono... Certo, ti potrai ammalare di questa malattia o meno. Nelle cellule c'è un meccanismo che attiva i geni, che gli dà una spinta, possiamo pensarlo come una molla che scatta e lancia questo processo. Quando avviene il lancio? Come avviene? Ecco qui il Nobel, cioè i tre ricercatori, i tre premiati, sono riusciti a trovare un modo per sostituire al gene che viene lanciato quello fluorescente. Quindi si ha un banale meccanismo visivo. Al microscopio noi vediamo che c'è qualcosa di fluorescente che però ci dice, ecco, in questo momento è partito per esempio un meccanismo di differenziazione. Quindi hanno scoperto qualcosa che serve a scoprire qualcos'altro. Assolutamente, è del tutto analogo a quando quei chip si mettono per seguire gli orsi con i satelliti, ecco, esattamente la stessa cosa. Stavolta pare nessuna polemica italiana, insomma nessun chimico italiano ha contribuito a questa scoperta. Grazie a Federico Pedrocchi che conduce Mebius su Radio 24, il nostro esperto di scienze. La notizia è arrivata questa mattina e stiamo parlando di sport. Il Comitato Olimpico Internazionale ricontrollerà tutti i campioni dei test antidoping delle Olimpiadi di Pechino 2008 per cercare tracce dell'EPO di terza generazione. E solo ieri Thomas Bach, membro del CIO, ha lanciato una proposta per alcuni versi scioccante, insomma escludere il ciclismo dal programma olimpico perché i casi di doping sono troppi. Su questo Dario Ricci ha intervistato Ottavio Cinquanta, che è uno dei membri italiani del Comitato Olimpico. Non mi risulta che nella sessione del CIO sia stata svolta alcun approfondimento a questo riguardo, no? Per quanto riguarda una oggettiva direi determinazione o commento è che insomma, per quanto riguarda i giochi olimpici di Pechino, a quanto mi è noto al momento non c'è stato nessun problema. Chiaramente il dibattito intorno al ciclismo è particolarmente sentito, vista anche la popolarità di questo sport, ma per quella che è la sua esperienza, crede che effettivamente una temporanea esclusione dal consesso delle discipline olimpiche potrebbe portare un qualche vantaggio nell'ambito della lotta al doping? Anzitutto il ciclismo è un po' sotto esame perché il ciclismo svolge degli approfonditi, direi. Esami antidoping. Bisognerebbe cominciare a vedere se è solo il ciclismo che dovrebbe essere meglio valutato. La mia non è un'accusa, è semplicemente una constatazione. Il ciclismo è sotto la lente di ingrandimento e dalla lente di ingrandimento a volte appaiono dei motivi dubbi e che richiedono approfondimenti e richiedono anche delle sanzioni, no? Ora, il fatto che il ciclismo sia sotto la lente di ingrandimento e talvolta manifesti dei motivi di apprensione è perché la lente di ingrandimento c'è. Quindi l'assumere atteggiamenti drastici come quelli che Thomas Bach ha assunto ce ne corre, ecco, perché colpirebbe i giochi olimpici, ma se si fermano i giochi olimpici e si dà il disco verde agli altri eventi mondiali, non capisco quale potrebbe essere la sanzione educativa del genere. Cioè lei non fa i giochi olimpici ma fa il Giro di Francia, il Giro d'Italia, ne saremo a Parigi-Roubaix, a Parigi-Bruxelles, eccetera. Quindi non capisco. Ogni 4 anni lei assume un atteggiamento e tra un anno e 3-4 anni cosa fa? Nel ciclismo, che è uno sport, ci sono tante manifestazioni. E lei crede che i malintenzionati che vanno al Tour de France o alla Vuelta o al Giro d'Italia si facciano spaventare dalla misura che lei va a prendere su un evento dove forse questi malintenzionati non vogliono neanche partecipare? Mi sembra molto lontano dall'efficienza di Thomas Bach questa ipotesi. E come ogni mercoledì la rubrica sul gossip. Ricordate che a settembre avevo parlato del gesto sobrio e misurato, niente affatto fatto per mettersi in mostra dell'ex partecipante al Grande Fratello, Raffaella Fico, quella insomma che per racimolare giusto qualche quattrino e per comprarsi casa aveva messo all'asta, non avendo evidentemente a disposizione dei quadri preziosi, la propria verginità per la modica cifra di 1 milione di euro? Ebbene, si chiederà qualcuno in modo tormentoso, che ne sarà stato di quell'asta? Qualcuno avrà mai risposto al disperato appello della giovine? Un'offerta economica pare vi sia stata in realtà ed è quella di un imprenditore trevigiano cinquantenne che avrebbe offerto alla casta ventenne una cifra un po' a ribasso, a dire la verità. 1 milione è troppo, avrebbe sottolineato l'imprenditore, facciamo 500.000 euro. E l'ardita ventenne pare non abbia detto subito di no, ma si sarebbe presa del tempo per rifletterci. Avrà presumibilmente detto, ciao, fammi fare due conti. Qualche giorno fa però la Fico è stata beccata dai paparazzi con un altro imprenditore. Si vede che quella è un po' la categoria di maggiore interesse per lei, ma sotto i 50 anni questa volta è di bella presenza. Che la proposta indecente abbia trovato questa volta un vero estimatore. E proseguiamo sulla linea hot, per così dire, con delle venature, a mio modo di vedere, un po' bislacche. Rosita Celentano, primogenita dell'Italico molleggiato, sta scrivendo un libro sul tradimento. Dal titolo sentite un po' Grazie a Dio ho le corna. E beh, c'è chi lo ringrazia per il dono della salute e chi lo ringrazia per avere le corna, insomma, in totale libertà. Sostiene la Celentano che le scappatelle non compromettono una storia d'amore, per carità, su questo ognuno può avere il proprio punto di vista. Ma poi la questione, come spesso accade, diventa per così dire, a senso unico, è che non credo nella fedeltà sessuale da parte di un uomo, dice. Scappatelle, avventurette sporadiche si possono anche mettere in conto. Ma in tutto questo, ci si può legittimamente chiedere, è prevista quantomeno la reciprocità? Ma che, tanto per cambiare, io sono fedele, totalitaria, asserisce con fermezza Rosita, e non tradisco, e fin qui va bene. Non tradisco però, dice, perché sono una donna. E che vuol dire, verrebbe da chiederle? Penso, continua, che noi donne, quindi, non sentiamo il bisogno di provare la frivolezza di una scappatella. Scusa, cara Celentano, verrebbe da osservare. Non dire corbellerie, e soprattutto, parla per te. Chi l'ha detto che le donne non sono a loro volta fortemente tentate? Semmai, un po' per natura, un po' per retaggi culturali, sono più inclini alla responsabilità, all'investire davvero in un amore ritenuto importante, ma la carne è sempre carne, carne tremula, come si dice. Altrimenti ritorniamo ai vieti stereotipi cavernicoli, no? Secondo i quali, vi ricordate, l'uomo da puzzà, l'uomo è cacciatore, quindi anche l'uomo ha da tradì. E dunque, per passare al prossimo gossip, dal momento che la splendida attrice Angelina Jolie, fresca di parto gemellare, che ha portato a sé il numero dei suoi figli con Brad Pitt e tra naturali e adottivi, dal momento, dicevo, che ha confidato che con tutti questi bimbi la sua intimità con Brad sta subendo, diciamo così, delle perturbazioni, cosa le consiglierebbe Rosita Celentano? Di mettersi il cuore in pace e lasciare che Brad sfoghi i suoi bollori un po' a destra, un po' a sinistra, in ordine sparso? Quella di Angelina Jolie però pare tutt'altro che una personalità da geisha, e consiglierei caldamente a Brad di non metterla mai alla prova. E con questo Roberta Giordano chiude qui, vi dà appuntamento con il gossip al prossimo mercoledì. In chiusura, prima di chiudere, un brevissimo aggiornamento di borsa. La notizia di giornata è che le principali banche centrali del pianeta hanno tagliato di mezzo punto i tassi di interesse. Deborah Rosciani, come sta andando? Sta andando esattamente come il nostro ultimo collegamento. Dopo i ribassi profondissimi di stamattina, le borse europee hanno recuperato tutte quante, sono ancora tutte in calo, ma in misura molto inferiore rispetto ai tracolli della mattinata. Milano meno 1,43 sull'S&P MIB, Parigi meno 0,23, Francoforte meno 1,05, addirittura positiva Londra più 0,4%, dovrebbero aprire piuttosto positive anche le piazze, anzi dovrebbe aprire positiva anche la piazza americana. Lo Standard & Poor's, il futures, sale del 3,3%, Dow Jones più 1,8%, Nasdaq più 2,8%, è tutto. Tutte le principali banche centrali del mondo hanno tagliato i tassi di interesse, giù di mezzo punto in Europa e negli Stati Uniti. Le borse riprendono fiato, ma come avete sentito, i listini restano negativi. E sulla crisi, due incontri straordinari a Roma, vertice fra governo, Banca d'Italia, Confindustria e Mediobanca. Questa sera alle 20 invece il Consiglio dei Ministri, verrà varato un decreto per sostenere il sistema bancario. Nella notte c'è stato il nuovo confronto TV tra Obama e McCain, meglio il democratico secondo i sondaggi. Numeri magici, terzo Nobel diviso in tre, dopo medicina e fisica va ad un giapponese e due americani il premio per la chimica. Doping tutto da rivedere, il comitato olimpico annuncia il ricontrollo dei campioni raccolti nei giorni di Pechino, si cerca l'EPO di terza generazione. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Peter Bescapè. Se volete scriverci, extralarge@radio24.it. Prossimo giornale radio alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR 24, il sole 24 ore. Direttore Giancarlo Santalmassi.